2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Ci trovate su Twitter e Facebook, oppure se volete potete inviare una email 2024@radio24.it. Iniziamo parlando di Open Fiber, che è la società che Enel ha creato per posare fibra ottica in tutta Italia. Inizierà i lavori a maggio. Dovrebbe iniziare i lavori a maggio, lo ha annunciato questa settimana l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, che non ha fatto un annuncio ad hoc, lo ha detto ai giornalisti a margine, come si dice, di un evento che era su tutt'altro, rispondendo alle domande che sono sempre più frequenti su questo progetto di posa di fibra ottica proprio su Open Fiber. Starace ha detto: inizieremo i lavori a maggio. Ha spiegato che il dossier fibra verrà esaminato dal consiglio d'amministrazione del 22 marzo. Questo piano dovrebbe prevedere una prima fase di lavori in 250 città in aree dove esistono già offerte alternative in ADSL e fibra fino ai cabinet, quindi fiber to the cabinet, fiber to the street, ma non fiber to the home, quindi la vera e propria fibra ottica, mentre quella che molto spesso gli operatori di telecomunicazioni pubblicizzano è una fibra ottica fino ad un certo punto, nel vero senso della parola, che arriva fino ai cabit, poi da lì si continua fino con il vecchio doppino di rame. Allora, questa infrastruttura, cioè quella che sta progettando e che costruirà Enel, arriverà al contatore elettrico e quindi sarà molto vicina agli appartamenti, con benefici sulle prestazioni. Si chiamerà Fiber to the Building, fino al palazzo, ma poi da lì, insomma, con una tratta molto, molto veloce si arriva fino alla casa, fino all'appartamento. I primi operatori che collaboreranno con Enel saranno Vodafone e Wind. Sono operatori che tentano in tutti i modi di fare concorrenza a Telecom Italia, in modo particolare anche a Fastweb, che ha una sorta di accordo con Telecom per fare il Fiber to the Cabinet. Allora, a questo punto rimane da capire che strada prenderà Metroweb, che è uno dei player più importanti nelle infrastrutture in fibra ottica e che Telecom Italia vorrebbe integrare, con evidenti però problemi di posizione dominante sul mercato e di possibile distorsione del mercato per le dimensioni che Telecom avrebbe anche a questo punto nel settore della fibra ottica, non solo nel vecchio doppino di rame con la DSL. E questo sì, insomma, bisognerebbe evitarlo. Allora, per il momento l'annuncio di Enel riguarda solo le zone di mercato dove non ci sarà finanziamento pubblico, quindi dove c'è concorrenza di altri operatori, mentre per quanto riguarda il piano nazionale banda larga, cioè i fondi europei che verranno messi a disposizione per cablare in fibra le zone a fallimento di mercato, quindi quelle dove non vanno gli operatori e che rischiano di rimanere ai margini, allora bisognerà attendere il via libera di Bruxelles, che dovrebbe arrivare entro la primavera, speriamo arrivi presto. Poi da lì si potranno fare le gare, verranno messi a disposizione i soldi e da lì poi si troveranno gli operatori che faranno l'infrastruttura anche nelle zone a fallimento di mercato. Però quello che è stato detto da Enel riguarda invece per il momento zone dove c'è già concorrenza di altre infrastrutture e di altri operatori. Ricordo ai nostri ascoltatori che è già dall'autunno che abbiamo chiesto a Enel un'intervista per parlare di questo tema, però con molta prudenza Enel si rivolge al pubblico e fa dichiarazioni ufficiali su questo tema, quindi per il momento c'è stato risposto molto frequentemente, visto che io cerco di insistere con delicatezza e con eleganza, ma insomma chiedo sempre un'intervista su questo. Insomma, prima o poi arriverà anche la voce di Enel che ci racconterà quello che succederà. Allora, chiudo con altre due notizie legate a questo tema. La prima è: finalmente in vigore il decreto fibra ottica, lo chiamiamo così per farci capire, che dovrebbe facilitare l'installazione di nuove reti, favorendo la condivisione delle infrastrutture già presenti nel sottosuolo, quindi ad esempio cavi dotti da mettere a disposizione anche della nuova fibra, l'uso di nuove tecnologie per scavare, ci sono sistemi sostanzialmente robotizzati che vanno in automatico e posano fibra. Tutto, cioè questo decreto fibra ottica, dovrebbe agevolare e snellire la posa, quindi dal punto di vista burocratico e tecnico, ma anche diminuire il costo delle opere, e tutto questo è una cosa positiva. Un'altra notizia che si collega al piano di Enel riguarda Prysmian. Prysmian, per chi non lo sa, è una azienda molto interessante, uno dei principali costruttori di cavi e sistemi sia per l'energia che le telecomunicazioni, che hanno bisogno di cavi. Allora, Prysmian ha annunciato di avere messo a punto un cavo che integra il rame per l'energia elettrica, quindi il cavo classico di rame, e anche quello in fibra ottica, quindi tutto in uno, e, scrive il comunicato ufficiale di Prysmian, è pensato in particolare per utilities nel settore energia. Uno fa 2 più 2 e dice che cavolo, hanno fatto il cavo per Enel, però è una buona notizia anche questa. Prysmian, lo ricordo, è un'azienda italiana, è una società che fattura 7,5 miliardi di euro, ha 19.000 dipendenti in 50 paesi, in 88 impianti produttivi, fra cui quello di Battipaglia in provincia di Salerno, che è l'unico in Italia per la produzione di fibra ottica. E questo è un altro tassello che va nella stessa direzione, quindi quella di creare una infrastruttura in fibra ottica, possibilmente senza creare un soggetto che sia dominante sul mercato, perché Enel in questo caso farebbe solamente l'operatore neutrale e quindi venderebbe, noleggerebbe la capacità sui cavi in fibra ottica, ma il servizio a casa nostra lo portano gli operatori di telecomunicazioni, che è quello che ci vuole al mercato. Adesso alcune notizie in breve della settimana nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo dal settore automotive, come si dice. Ford ha annunciato la creazione di una nuova società che si occuperà dello sviluppo di nuove tecnologie, soluzioni e servizi di mobilità evoluta. La società si chiama Ford Smart Mobility. Anche General Motors sta accelerando gli sforzi e gli investimenti per la mobilità del futuro e ha annunciato di avere acquisito, per una cifra che non è stata comunicata, una startup californiana che si chiama Cruise Automation, specializzata nel software per veicoli a guida autonoma. AlphaGo, che è il software di intelligenza artificiale sviluppato dalla divisione DeepMind di Google, ha battuto per ben 2 volte il campione del mondo di Go. Go è un gioco complicato di strategia di origini cinesi. Poche regole, ma un gran caos. Bisogna essere molto bravi, molto scaltri. Allora, le 2 partite sono durate complessivamente 8 ore. Ci saranno altre partite in questi giorni fino al 15 marzo, visibili anche su YouTube. Quindi se cercate su YouTube Go oppure AlphaGo, che è questo software di intelligenza artificiale, troverete sicuramente la possibilità di seguire le dirette se avete voglia di stare attaccati allo schermo per qualche ora per vedere, e soprattutto se sapete le regole, perché se non sapete le regole non è molto divertente. Comunque questa è una ulteriore dimostrazione delle capacità dei software di intelligenza artificiale, che diventano sempre più bravi e soprattutto imparano ad una velocità incredibile, e quindi insegnare ai software di intelligenza artificiale diventa sempre più facile e sempre più veloce. Digital News. Lunedì a Parigi, in occasione della conferenza Radio Days Europe, la LG presenterà la nuova versione di uno smartphone che si chiama Stylus 2, che integra, e questa è la novità, un ricevitore DAB+, quindi il DAB, la Digital Radio, cioè un sintonizzatore integrato, che di fatto è un chip che costa pochissimo, per ascoltare la Digital Radio. Lo Stylus 2 verrà distribuito anche in Italia a partire dalla fine di aprile. Digital News. Secondo Kantar World Panel, le quote di mercato di Android in Italia sono cresciute a gennaio del 78, anzi, sono cresciute al 78,1%, grosso modo del 2%, a scapito di Windows che scivola al 7,2%. L'Italia comunque rimane un mercato importante per i sistemi mobile di Windows, mentre iOS rimane stabile al 14,4%. BlackBerry e gli altri sistemi operativi, c'è qualcosa di marginale, sono confinati ad un piccolo 0,3%. Digital News. Chiudiamo con una notizia che riguarda il digitale terrestre e la TV satellitare. Questo è un tema di cui parleremo anche tra poco. Il nuovo canale Paramount Channel, che è in onda da qualche giorno sul digitale terrestre, al canale 27, ma in definizione standard, è ora disponibile anche in HD via satellite sulla piattaforma TVSAT. Tra poco parleremo di realtà virtuale e parleremo anche dello SPID, un nome simpatico per una cosa molto interessante e molto seria, cioè il sistema di identità digitale, sistema pubblico di identità digitale. Ne parleremo tra poco. Adesso parliamo brevemente di un appuntamento che si è chiuso a Marrakech in Marocco, uno dei tanti meeting dell'ICANN, che è l'organismo che regola il meccanismo col quale funziona Internet e è una entità responsabile della convalida dei nomi a dominio. Allora, si è trattato in realtà di un appuntamento che per i tecnici della rete, per molti commentatori di Internet, è un appuntamento storico per il governo della rete, per la governance della rete, perché è iniziato un percorso che dovrebbe portare la supervisione tecnica della rete Internet fuori dal solo controllo degli Stati Uniti. Allora, è un iter molto lungo, quindi ci vorrà tempo, bisognerà valutare molto bene quello che si sta facendo, perché, diciamo la verità, sostanzialmente gli Stati Uniti fino adesso hanno garantito una certa libertà della rete Internet e alcuni dicono, se tutto ciò va in mano a entità tipo le Nazioni Unite, molti stakeholder, potrebbe il rischio essere quello che governi come la Cina, come la Turchia, come molti paesi arabi, dove ci sono dittature che insomma non garantiscono i diritti umani come in altri paesi occidentali, possano dire la loro in maniera un po' troppo forte. Vedremo. Allora, da martedì inizierà ad esistere anche per i cittadini lo SPID, che è il sistema pubblico di identità digitale. Un unico user e una password, siamo abituati ad averne tantissime, in questo caso un'unica, due credenziali uniche per accedere a tantissimi servizi della pubblica amministrazione e anche a servizi di privati. Saluto Antonio Samaritani, che è il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, la AGID. Benvenuto a 2024. Grazie mille a voi, buonasera. Allora Samaritani, come faremo noi cittadini ad ottenere queste credenziali per accedere ai servizi della pubblica amministrazione? Allora, SPID, che come diceva giustamente lei è il sistema pubblico di identità digitale, è rilasciato oggi da tre identity provider, cioè da tre soggetti privati, tra aziende private, che sono TIM, Poste e Infocert, le quali hanno i loro meccanismi di rilascio delle password. Partono da un processo che è stato ovviamente verificato e approvato da AGID, ma poi col garante della privacy, quindi con tutta una serie anche di cautele e di verifiche, ma poi ciascun all'interno del solco del processo tracciato, ciascun identity provider è libero di scegliere un processo sostanzialmente di consegna dell'identità digitale. I punti fondamentali comuni al processo dei tre identity provider sono il controllo dell'identità attraverso o un riconoscimento web o un riconoscimento fisico e il controllo di un documento d'identità. Benissimo. E questo può avvenire appunto anche solo attraverso Internet. Anche attraverso Internet, esatto. Che è una, visto che parliamo di cose digitali, mi sembra. Digitali, è auspicabile che sia così. Esatto. Senta, chiariamo subito una cosa che è interessante. Questa scelta di affidare ai privati l'erogazione di una identità digitale. Fino ad oggi noi siamo abituati ad un mondo dove l'identità ci viene affidata dalla pubblica amministrazione, lo Stato che dice nei confronti degli altri cittadini che io sono Enrico Pagliarini con tutta una serie di documenti. Come mai in questo caso invece sono i privati a farlo? È esattamente così, cioè esattamente come dice lei, e forse diciamo che il punto di fondo è che più che chiamarlo identità digitale, forse sarebbe stato il caso chiamarlo di autenticazione digitale, però era meno immediato per il cittadino. Mi spiego. L'identità è ovviamente fornita dallo Stato ed è la carta, poi si riassume nei documenti di identità, passaporto, carta di identità, eccetera, che infatti sono alla base del rilascio di SPID. Quindi lo Stato continua a fare il suo mestiere, e cioè il rilascio, la verifica e la certificazione dell'identità del singolo cittadino. A questo punto, perché abbiamo lasciato ai privati la fornitura, comunque la possibilità di erogare credenziali? Perché per due motivi fondamentali. Il primo è perché speriamo e vogliamo che su questa identità si creino anche una serie di servizi a valore aggiunto per il cittadino, difficili probabilmente da erogare dallo Stato. Qua ci tengo a fare una precisazione importante, non si tratta di servizi di profilazione commerciale, cioè proprio dal regolamento definito col garante della privacy, l'identity provider non può, diciamo così, vendere la navigazione o i comportamenti di navigazione del cittadino, però può fornire per esempio servizi di sicurezza, di security. Esattamente come avviene per le carte di credito, può per esempio notificare al cittadino tutte le volte che viene usata la propria identità digitale, quindi il cittadino ha una garanzia di sicurezza nel fatto che la propria identità venga utilizzata solo da lui e può revocarla esattamente con sistemi simili a quelli della carta di credito che viene utilizzata in modo improprio. L'altro elemento per cui l'abbiamo affidata ai privati è che speriamo e vogliamo che il sistema pubblico di identità digitale diventi un'infrastruttura a servizio del paese anche per le aziende private, e cioè sostanzialmente come uno strumento a supporto dell'e-commerce e quindi della possibilità per una startup piuttosto che un'azienda che vuole entrare su internet di avere un sistema di identità già definito, già certificato, già sicuro, e quindi dare ai privati che fanno e-commerce la possibilità di concentrarsi solo sul core business, cioè sulla creazione della parte vendita. Quindi, se ho capito bene, io se dalla prossima settimana mi prendo uno SPID che quindi identifica me persona, questo SPID, cioè questo user ID unico, mi serve per entrare nei servizi della pubblica amministrazione, ma potrebbe anche servirmi, non so se già oggi, ma nel futuro, per entrare, che ne so, in un sito di e-commerce. Esattamente. Allora, ovviamente questo sarà un processo, e questo ci tengo a sottolinearlo, graduale, e graduale da tutti i punti di vista, nel senso che sarà graduale per l'adesione dei servizi alla pubblica amministrazione. Noi abbiamo annunciato 600 servizi quindi dalla prossima settimana a giugno, e su questo siamo assolutamente in linea con le previsioni. E tra i servizi che agganceremo per primi abbiamo 6 regioni, abbiamo IMSS, INAIL e l'Agenzia delle Entrate, abbiamo alcuni comuni, quindi cominciamo ad avere un discreto, diciamo, bouquet di servizi che gradualmente crescerà. Nello stesso modo crescerà gradualmente il rilascio delle identità digitali al cittadino, perché chiaramente sono tutti processi che anche gli identity provider devono testare, provare, controllare, verificare, eccetera. E quindi si partirà in maniera estremamente graduale, e ovviamente qui dipenderà dal grado di confidenza che gli identity provider avranno nel rilascio più o meno veloce delle identità digitali al cittadino. Questo non significa che ci saranno tempi di attesa, significa che attiveranno con prudenza il servizio, quindi che ne so, un ufficio per volta piuttosto che province e poi successive altre regioni. Ci sarà quindi un percorso sicuramente graduale di attivazione, e nello stesso modo ci sarà un percorso altrettanto graduale per i servizi privati, che ovviamente prima vorranno vedere il funzionamento da parte delle pubbliche amministrazioni del sistema. Sì. Quindi è un percorso che io immagino possa durare tutto il 2016. Sì, sì, beh, certo, non è che si accende un pulsante. Esatto. Senta, è possibile che lo SPID venga anche rilasciato dalla pubblica amministrazione? Che ne so, l'Agenzia delle Entrate mi dà uno SPID, cioè una identità che poi vale per tutti gli altri. Allora, dal punto di vista normativo e quindi dal punto di vista, diciamo, teorico, sì, è possibile. Non dimentichiamoci che le regioni, per esempio, con la carta nazionale dei servizi rilasciavano di fatto un sistema di autenticazione e rilasciano tuttora un sistema di autenticazione. Quello che noi riteniamo difficile nel futuro sta nel fatto che tutti i tentativi fatti prima, no, dalla pubblica amministrazione di estendere i servizi verso il mondo del privato chiaramente non sono andati a buon fine, per un motivo molto semplice: nessuna pubblica amministrazione può assumersi il rischio di business della continuità di un business. Mi spiego, se il servizio SPID viene utilizzato anche da una banca, un imprenditore privato può mettere nel conto, facendosi un'assicurazione, facendo quello che vuole, la continuità del servizio per una banca. Un pubblico, ovviamente, utilizzando soldi pubblici, non può fare questo tipo di mestiere. Sì. E quindi questo è il motivo per cui i sistemi di identità, ma diciamo tutti i sistemi della pubblica amministrazione, sono sempre stati visti come separati rispetto ai sistemi privati. Ora, infatti, SPID è un ponte importante tra pubblico e privato, e qui c'è un altro punto secondo me di riflessione importante, e cioè proprio perché è un'infrastruttura comune, pubblico e privato, che noi abbiamo deciso sostanzialmente di lasciare in concessione ai privati, è il primo esempio di investimento che in qualche modo è il ponte tra l'informatica pubblica e l'informatica privata. Questo è importante perché ci si è sempre chiesti perché l'informatica pubblica abbia avuto degli investimenti, cioè un ritorno degli investimenti così basso, sostanzialmente perché è sempre stata raddoppiata, perché i privati avevano una soluzione e il pubblico ne avevano un'altra. Questa è la prima soluzione che è ponte e che servirà al mondo del privato e al mondo del pubblico. Sì. Siamo sicuri che rimarrà gratuito? Siamo abbastanza sicuri, cioè mi faccia dire anche questo seriamente. Noi abbiamo fatto le convenzioni per i prossimi 2 anni e per i prossimi 2 anni è ovviamente gratuito. Perché l'abbiamo fatto solo per 2 anni le convenzioni? Perché qua stiamo operando, come ho cercato di spiegare prima, un nuovo mercato, no, nuovi servizi, nuovi mercati. Allora, noi siamo ragionevolmente sicuri che il business si pagherà attraverso i nuovi servizi che verranno creati, l'adesione dei privati, eccetera. E ci conferma il fatto che comunque con oggi con una totale gratuità abbiamo avuto 3 aziende di rilievo che hanno accettato di partire e ne abbiamo altre 2 che hanno fatto richiesta di diventare identity provider. Quindi sostanzialmente c'è un mercato che si sta muovendo con interesse, e siccome c'è un interesse rispetto ad un diciamo così, a un business model che in questo momento sembra non essere chiaro, vuol dire che le aziende hanno fatto i loro conti. Quindi noi abbiamo la ragionevole sicurezza di poter continuare con un approccio e una filosofia totalmente gratuita per il cittadino. Abbiamo fatto apposta una convenzione per 2 anni proprio perché entro 1 anno e mezzo ci siederemo intorno a un tavolo e capiremo come fare a mantenere lo spirito di gratuità per il cittadino nel caso in cui i numeri non tornassero, però io sono relativamente sicuro che torneranno. Sì. Senta, le faccio un'ultima domanda. Ad oggi, ovviamente per il cittadino il vantaggio principale è quello di avere un'unica password e un unico user e poter accedere a questi 600 servizi che poi diventeranno anche di più della pubblica amministrazione. Quindi, che ne so, io entro nel sito dell'Agenzia delle Entrate, anche in quello dell'Inps, sempre con le stesse credenziali. Quali sono gli altri vantaggi che spiccano, al di là della possibilità poi di accedere ad altri servizi che verranno creati anche dai privati, ma dal suo punto di vista quali sono gli altri vantaggi molto eclatanti? Guardi, per il cittadino sostanzialmente io direi che ci sono 3 vantaggi. Allora, 2 sono di ordine, diciamo così, di semplicità. Allora, 1 è quello che diceva lei, sostituiamo sostanzialmente il foglietto piuttosto che i numeri nascosti nelle agendine o nel telefono, cioè che tutti noi abbiamo per tenere traccia delle innumerevoli password che dobbiamo gestire, no? E questo è il primo elemento di semplificazione. Il secondo elemento di semplificazione è che rispetto alla carta regionale dei servizi, la carta nazionale dei servizi, che anche quello è un sistema di autenticazione, qua stiamo facendo un salto tecnologico e quindi sostanzialmente avremo delle soluzioni che le identity provider daranno al cittadino basate per esempio sul cellulare, su app, eccetera, eccetera. E quindi con un sistema di gestione delle password e delle identità molto più semplice, e quindi di nuovo più facile da usare. E terzo vantaggio è quello della sicurezza, cioè qui noi abbiamo un'identità che è controllata alla fonte, perché bisogna fare quel passaggio di verifica del documento di identità. Quindi lei si immagini il livello, diciamo, di sicurezza delle transazioni che si può avere su internet. Cioè oggi io faccio un'identità, mi registro su un sito e poi incomincio a fare transazioni e non è neanche detto che sia io. SPID garantisce che il cittadino che si è iscritto sia proprio lui. E sì, quindi il livello, mi faccio dire, di trust nelle transazioni in rete aumenta in maniera, diciamo, esponenziale. Sì, qualcuno, sicurezza, semplicità e facilità d'uso. Qualcuno in Europa ha fatto una cosa del genere? Sì, guardi, ci sono alcune esperienze, tipo l'Estonia, c'è un'esperienza inglese che è abbastanza simile. La differenza fondamentale, soprattutto rispetto all'esperienza inglese, è che peraltro è partita un anno prima di noi, è che noi, essendo partiti appunto un anno dopo, siamo totalmente già aderenti alla normativa europea in termini di identità digitale, quindi alla normativa EIDAS, e questo ci dà anche secondo me un discreto e un grande vantaggio verso quello che poi sarà il mercato unico europeo del quello che si chiama il digital single market, cioè il mercato unico europeo di internet, perché le nostre identità potranno essere riconosciute da operatori europei e viceversa. Molto bene, grazie e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ci fermiamo per qualche minuto, riprendiamo tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 @radio24.it. Tra poco sarà con noi Gianfranco Giardina per parlare di un annuncio che è stato fatto dalla RAI che riguarda il 4K. Ne parliamo tra poco, adesso parliamo di realtà virtuale. Allora, sapete che siamo alla vigilia dell'uscita sul mercato di due visori di realtà virtuale molto attesi, tecnologicamente molto evoluti. Parliamo di Oculus Rift e HTC Vive. Usciranno tra poco, cioè le consegne sono imminenti. Per chi lo ha prenotato, per chi li ha prenotati, comunque sono cose di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate di 2024. Si comincia a sperimentare come questa tecnologia potrebbe venire utilizzata. Allora, sicuramente l'intrattenimento è il principale canale di sviluppo, poi ci sono servizi commerciali, promozionali, di marketing. C'è il settore medico e quello della formazione professionale. Allora, questa settimana MSC Crociere ha presentato una estensione del proprio catalogo che si può vedere con un'app sullo smartphone, uno smartphone che però dopo si inserisce in un visore di cartone molto semplice che viene fornito da MSC assieme al catalogo, e con questo sistema si vede in realtà virtuale, si vedono alcune zone, alcune aree della nave dove si andrà in crociera e alcune tappe toccate dalla crociera. Allora, l'esperienza di realtà virtuale con questi visori è molto rudimentale, molto, molto semplice, ma comunque si ha un'idea di che cos'è la realtà virtuale. Un altro mondo che da tempo sta sperimentando è quello dei musei. In queste settimane il Museo di Arte Orientale di Torino sta proponendo una visita nella visita, potremmo chiamarla così, perché uno va e oltre a vedere quello che c'è nel museo può vedere alcune delle opere esposte nel loro ambiente originale. Come, in che modo? Con la realtà virtuale, in questo caso con un sistema Oculus Rift. Miriam Korjat è andata in visita al museo e ne ha parlato con Marco Biscioni, che è il direttore del Museo di Arte Orientale di Torino. È un'immersione nella città proibita. Il visitatore impersona l'imperatore, entra in uno dei padiglioni, entra nei cortili della città proibita, entra in uno dei padiglioni della città proibita, troverà uno dei tappeti esposti nella mostra a terra, avrà intorno i dignitari, avrà intorno le guardie e poi si siederà sul trono. È un'esperienza breve, un esperimento di un minuto e mezzo, due minuti, però uno strumento utilissimo in futuro per contestualizzare le opere dei musei, perché quelle che adesso noi vediamo nelle gallerie sono delle bellissime opere d'arte che stanno nelle teche. Un'esperienza del genere è uno strumento fondamentale per contestualizzare le opere d'arte, per permettere al visitatore di capire il contesto in cui queste opere sono state prodotte e il contesto per il quale queste opere sono state prodotte. E poi anche divertente, soprattutto. Quindi come una installazione del genere può cambiare il modo di vivere un museo? Può migliorare la fruizione, non sostituisce la realtà virtuale, non sostituisce la realtà, quindi l'esperienza diretta dell'opera d'arte è fondamentale, però questo è uno strumento importante che permette di capirla meglio, permette di capire, in fondo gli oggetti esposti nei musei hanno anche un ruolo evocativo, ci devono permettere di vedere anche e capire altri mondi e altre culture. questo strumento virtuale è un grande aiuto a questa comprensione e poi, ripeto, essendo divertente, facilita la trasmissione dei contenuti. Sentiamo anche Patrizia Asproni, che è la presidente della Fondazione Torino Musei. La Fondazione Torino Musei pensa che la tecnologia abilitante sia oggi assolutamente necessaria per spiegare la cultura, fare storytelling museale e raccontare il patrimonio in maniera innovativa e comprensibile a tutti i tipi di pubblico. Quindi abbiamo messo in piedi una collaborazione con una giovane startup, perché riteniamo che poi le fasi della ricerca che queste nuove imprese sviluppano debbano avere delle applicazioni pratiche e debbano raggiungere l'utenza. Quindi il nostro pubblico è il primo a sperimentare questa tecnologia, che, ripeto, è una tecnologia abilitante, quindi renderà ancora più approfondita la comprensione degli oggetti contenuti nel museo. Che cosa significa per voi iniziare a sperimentare una tecnologia come quella dei visori, che nei prossimi anni probabilmente arriverà al grande pubblico? Beh, siamo orgogliosi di fare questa sperimentazione proprio perché crediamo che in questo modo raggiungeremo dei pubblici che normalmente pensano che i musei siano luoghi noiosi e non da frequentare. Quindi stiamo utilizzando tutte le possibilità che la tecnologia ci dà, e oggi la realtà immersiva è fondamentale per capire davanti a cosa si trova. In questo caso faremo viaggiare gli utenti, i visitatori, verso la città proibita, un viaggio quindi particolare che li aiuterà a capire la mostra dei tappeti che sono stati all'interno della città proibita nel passato, che oggi possono ammirare nella mostra temporanea, ma che possono anche vedere com'erano all'interno della sala del trono quando si trovavano lì. Questa è un'anteprima, ma è solo la prima sperimentazione legata alla realtà virtuale a Torino. Sì, come si dice, l'appetito viene mangiando, quindi la tecnologia ci è piaciuta moltissimo, le reazioni sono state molto positive, quindi continueremo appunto con un upgrade di questa tecnologia che trasferiremo sul Borgo Medievale, un altro dei musei della Fondazione, e sarà un'anteprima mondiale molto particolare. Per quando è prevista questa anteprima? Beh, diciamo che dovremmo essere pronti entro un paio di mesi. Questa settimana la RAI ha annunciato che 8 partite degli europei di calcio verranno trasmesse in 4K o Ultra HD. È un annuncio importante per tanti motivi. Però ne abbiamo parlato con Gianfranco Giardina, che è il direttore del magazine digitale dday.it, uno dei nostri punti di riferimento in molti ambiti, anche in questo, ovvero il 4K. Beh, innanzitutto va detto che l'annuncio è un annuncio fatto molto in sordina, nel senso che non ha avuto una grande eco mediatica, perché Rai non ha fatto un annuncio specifico in questo senso, ma noi siamo riusciti ad avere questa informazione. Rai ha semplicemente annunciato che partiranno delle sperimentazioni in 4K, ma le prime sperimentazioni che vedremo sono appunto le partite degli europei. Che cosa significa 4K o Ultra HD? Significa trasmettere con una risoluzione che è 4 volte quella dell'attuale Full HD. Di conseguenza, praticamente abbiamo un dettaglio nettamente superiore, così superiore da poter stare molto più vicino allo schermo, godendo di uno spettacolo veramente immersivo, o dualmente poter avere uno schermo molto più grande senza avere nessun fastidio di visione. È un primo esempio di broadcasting in Italia semi-regolare, diciamo così. Non è un canale 4K che resterà sempre attivo, ma è una programmazione che incomincia a essere sensata, e viene fatto dalla RAI. Questa è una notizia. La RAI non ha l'intera programmazione degli europei, che è in capo in realtà a Sky, però 8 delle partite RAI saranno visibili appunto anche in 4K Ultra HD, con alcune condizioni. Ecco, allora vediamo quali sono, sentiamo quali sono queste condizioni. Prima di tutto ci vuole un televisore 4K. Questo è il primo requisito, ovviamente, se no riceviamo anche il segnale, ma non vediamo assolutamente nulla. Quindi ci vuole un TV 4K. L'emissione sarà via satellite, non esiste uno spazio sul digitale terrestre, una banda sul digitale terrestre sufficientemente ampia in questo momento e libera per poter fare queste trasmissioni, continuando a mantenere quelle più tradizionali, quindi quelle in standard definition e anche quelle full HD, perché le partite saranno anche in full HD su Rai HD sul digitale terrestre e anche su satellite ovviamente. Quindi la Rai farà tre emissioni della partita, quella in standard definition, quella in full HD e quella in 4K, e lo farà via satellite. Quindi il secondo requisito è quello di avere una parabola puntata verso Hotbird. Hotbird è il satellite più usato in Italia, tanto per intenderci quello dal quale trasmette anche Sky, quindi basta una parabola qualsiasi puntata verso il satellite di Sky o comunque verso il satellite che è largamente più utilizzato in Italia. Quindi quasi tutte le parabole sono puntate su quella, su quei gradi dove c'è una flotta di satelliti di Eutelsat e alcuni si chiamano Hotbird, che sono i più famosi. Insomma. Sì. Direi che la totalità delle parabole come minimo punta verso Hotbird. In alcuni casi ci sono parabole dual feed che puntano anche verso Astra, che è un'altra costellazione, ma Hotbird è quasi sempre garantito. Ecco, allora, oltre a il televisore 4K, la parabola puntata su Hotbird, che cosa serve per ricevere questo canale? Allora, per ricevere questo canale serve un TV 4K, ma non un TV qualsiasi 4K, serve un TV che integri un decoder HEVC, quindi è la codifica con la quale viene trasmesso queste partite. Tutti i TV Ultra HD 4K attualmente in commercio sono, o quasi tutti, la stragrandissima maggioranza, sono, rispondono a questo requisito. Non è così vero per i primissimi TV 4K, quelli già commercializzati direi 2-3 anni fa. Ecco, bisogna verificare che nelle proprie specifiche ci sia questa caratteristica, e ovviamente il TV deve essere dotato di un tuner satellitare. Anche qui, ormai i TV dotati di tuner satellitare compatibili con le trasmissioni Rai che fa via satellite sono tantissimi, centinaia, quindi ormai il tuner satellitare è molto diffuso, però bisogna averlo a bordo insieme a quello terrestre. Normalmente il TV ha o un tuner solo terrestre o il tuner terrestre più quello satellitare, e quindi ovviamente questo è un altro requisito, perché sennò il segnale satellitare non lo riceviamo. Ma non finisce qui. Cioè? Serve anche la CAM e la scheda di TVSAT, cioè queste trasmissioni vengono fatte sulla piattaforma TVSAT, che è una piattaforma gratuita gestita fondamentalmente dalla Rai e da Mediaset, diciamo così per semplicità, ma comunque è di proprietà 48,5% Rai, 48,5% Mediaset e poi altri editori per il restante 3%, e questa piattaforma trasmette via satellite in maniera criptata ma gratuita. Quindi comprando questa CAM, che è il modulo di accesso condizionato che va inserito nel TV in un apposito slot, tutti i TV ce l'hanno, e con la card si riesce a decodificare questo contenuto. Perché i contenuti di TVSAT sono codificati? Perché Rai ha i diritti, per esempio, per trasmettere le partite degli europei in Italia, non fuori dal territorio italiano. Il satellite illumina un'area ben più ampia della nazione italiana, e quindi c'è bisogno di un modulo di decrypt per decrittare, garantendosi che questo venga fatto soltanto da utenti italiani. Poi è evidente che se uno prende la CAM la porta all'estero, vede quel programma anche all'estero. Certo. Senti, allora, perché è importante, se è importante, ma visto che ne parliamo immagino che sia importante, questo annuncio? Perché siamo comunque agli inizi di un trend che vedrà fra, non so, 2, 3, 4 anni, non so quanti anni, una diffusione massiccia del 4K, o detto anche in altro modo Ultra HD, come dicono alcuni produttori. È l'inizio di un trend, e comunque stiamo ancora parlando di una cosa che, se non è proprio una sperimentazione, è ancora una cosa da grandi appassionati, perché uno deve avere il televisore, deve avere la parabola, deve avere il decoder, deve mettere la cam, deve essere abbonato tra virgolette, perché sappiamo che è gratis, ma deve comprarsi la scheda per TVSAT. Insomma, non è una cosa proprio per tutti. No, è una cosa per pochissimi in realtà. Per questo la cataloghiamo ancora tra le specie delle sperimentazioni e non una trasmissione regolare. Va detto che sono due, diciamo, le notizie che io vedo molto importanti attorno a questa vicenda. Uno, la prima a iniziare a fare queste trasmissioni in Italia è Rai. Da anni eravamo abituati a una Rai non più leader tecnologico, direi, guardando il panorama italiano, abbastanza surclassata da Sky, che è la prima che ha portato l'alta definizione in maniera imponente sul mercato italiano. Adesso ha decine di canali in HD Sky, e la Rai è stata un po' a guardare. In questo momento Rai trasmette alcuni canali in alta definizione sempre su TVSAT e un solo canale in alta definizione su digitale terrestre, quindi molto poco. Ma le cose stanno cambiando, anche perché Rai ha annunciato, anche qui soltanto agli antennisti e agli operatori, che entro la fine dell'anno ci sarà una dozzina di canali HD, cioè full HD, disponibili anche qui su satellite via TVSAT. Quindi questo esperimento, perché di questo si tratta, ci può essere anche d'aiuto per conoscere e far conoscere TVSAT. TVSAT è una realtà meravigliosa, perché è appunto gratuita, perché offre un sacco di canali italiani ed esteri, generalmente tutti quelli che vediamo sul digitale terrestre, ma anche qualcosa di più in standard definition e per una decina di canali in alta definizione. Questi canali saliranno di numero, si sa già, e già entro la fine del mese altri due canali Rai verranno a bordo, e ci sarà anche per esempio tutta la copertura Rai delle Olimpiadi in alta definizione sempre su TVSAT, e quindi è un qualche cosa con la quale gli italiani dovranno e secondo me vorranno anche confrontarsi, almeno quelli che sono attenti alla qualità. Non scordiamoci che il digitale terrestre è un canale trasmissivo a banda scarsa, quindi non si riesce a fare servizi a grande valore aggiunto, alta definizione, men che meno 4K, se ne riescono a fare molto pochi. Il satellite ha un costo della banda che è di un decimo rispetto al digitale terrestre, quindi si presta molto meglio, e quindi io vedo un mondo in cui gli utenti non interessati agli aspetti qualitativi, e ce n'è, è giusto che ci possano anche essere, continuino a vedere il digitale terrestre in standard definition, è un mondo invece di persone che preferiscono vedere in alta definizione, attendere tutto in alta definizione, e lo faranno sempre gratuitamente via TVSAT. Allora, adesso alcune considerazioni che riserviamo ai nostri utenti solo in podcast, per parlare del digitale terrestre, di quello che succederà nei prossimi anni, da qui al 2020-22. Però, senza andare troppo in là, faccio una domanda sul futuro prossimo, quindi vicino. È impensabile che qualche canale in alta definizione, in HD, di Rai o anche di altri broadcaster, di altri produttori, editori, possa arrivare sul digitale terrestre? Non c'è spazio, non c'è banda? Beh, lo spazio è molto poco già oggi, anche se Campo Dall'Orto ha annunciato, che è presidente della Rai, ha annunciato che Rai 1, 2 e 3, che già sono emessi via satellite su TVSAT, troveranno posto entro la fine dell'anno anche su digitale terrestre. Tutti però si chiedono un po' dove e a scapito di quali altri canali, perché oggi la capacità trasmissiva della Rai, almeno sui multiplex che hanno una copertura nazionale, è praticamente satura. Il bello e anche il brutto delle codifiche video digitali è quello che possono essere compresse a piacere. Cioè, io posso fare anche un full HD e comprimerlo in un flusso dati di 8, 7, 6, 5, anche 2 megapixel. È chiaro che avrò un full HD sulla carta, ma sarà largamente squadrettato per gli artefatti di compressione. Quindi tutto si può fare, bisogna vedere come viene fatto. Io preferisco pensare a un mondo dove il collo di bottiglia non sia la disponibilità di banda, ma magari sia la qualità del segnale nativo piuttosto che la qualità del TV a casa dell'utente. Certo, anche perché il rischio è che sia meglio un'immagine in standard definition con una buona banda, una buona qualità, piuttosto che un HD super compresso e con qualche trucco per far finta che sia un HD. Ecco, se noi invece guardiamo un po' più in là nel futuro, c'è un grande dibattito tra gli operatori, ma poi riguarda anche tutti noi e riguarda anche il sistema paese, a livello europeo, per spostare la banda dei 700 MHz, comunque senza entrare in questi tecnicismi, una porzione dello spettro dove vengono trasmessi i segnali della televisione, per spostarla alla telefonia mobile. Questo naturalmente ci interessa, perché questo vuol dire che nei prossimi anni ci sarà molta più banda per il 4G e il 5G, sono tecnologie di mobilità, rubando spazio alla TV. Quindi la situazione per il digitale terrestre peggiorerà, o no? Assolutamente sì, peggiorerà, perché l'Europa fa un ragionamento che è ovviamente molto logico e decisamente condivisibile. Di qui al 2020 la domanda di traffico dati in mobilità salirà dell'800%. La domanda di banda su digitale terrestre per i canali broadcast tradizionali forse salirà un po', forse scenderà, ma di certo non avrà un incremento dell'800%. Quindi se qualcuno deve lasciare spazio a un altro, qui è il digitale terrestre che deve fare un passo indietro e lasciare spettro trasmissivo alle telecomunicazioni mobili. L'Italia ha una peculiarità, il digitale terrestre negli ultimi anni e comunque le trasmissioni terrestri da decenni sono sempre state praticamente quasi l'unico sistema di trasmissione, almeno per i contenuti gratuiti. Altre nazioni hanno il cavo, altre nazioni hanno un uso molto più intensivo del satellite, anche gratuito, quindi hanno delle situazioni un po' diverse. Altre nazioni, pur appoggiandosi al digitale terrestre, hanno un numero di canali, una molteplicità di canali decisamente inferiore alla nostra, e quindi hanno meno problemi a liberare questa famosa banda 700 che, tanto per dirlo chiaro, corrisponde circa a un terzo dello spazio trasmissivo attuale. Quindi il digitale terrestre dovrà fare a meno, secondo l'Europa nel 2020, di un terzo dello spazio trasmissivo. Questo significa prendere un terzo dei canali che vediamo oggi e spegnerli, cioè non ci sono alternative. Ovviamente nessuno vuole essere tra quelli spenti e quindi bisognerà capire come gestire questa cosa, e già si stanno sentendo delle soluzioni, però alcune soluzioni non ci piacciono affatto. Allora, c'è una delle ipotesi, è spostare tutto al 2022, ma forse cambia poco. Una delle ipotesi potrebbe essere quella di utilizzare sistemi di compressione, quindi mettere gli stessi canali o addirittura più canali nello stesso, anzi in meno spazio, tipo utilizzare il DVB-T2 famoso. Sì, il DVB-T2 è il nuovo standard, la nuova generazione di trasmissioni digitali terrestri, che garantisce, la sua principale caratteristica è quella di garantire un'efficienza maggiore, quindi una migliore occupazione dello spettro e, diciamo, più o meno recuperare quel terzo di banda che viene persa con la cessione della banda 700 alle telecomunicazioni, quindi garantire un pari perimetro di canali trasmissivi utilizzando questo DVB-T2, magari in unione con la codifica HEVC di cui abbiamo anche parlato prima. Questa è un'ipotesi che è stata fatta in passato, alcuni paesi sono passati direttamente alla DVB-T2, cioè hanno fatto lo switch off dall'analogico al DVB-T2, parliamo dei paesi più che altro dell'est europeo che sono arrivati un po' più tardi sul digitale, ma i paesi invece più occidentali hanno fatto tutto uno switch off al DVB-T. Adesso fare uno switch off al DVB-T2 significa cambiare fondamentalmente gli apparecchi, cioè i vecchi apparecchi, i vecchi TV e i vecchi decoder DVB-T non sono più compatibili con questo tipo di trasmissioni. Quindi significa fondamentalmente andare a sostituire l'intero parco installato o di TV o di decoder. La cosa ovviamente crea un problema, anche se va detto c'è un obbligo di legge per cui dal prossimo 1 gennaio 2017 tutti i TV in commercio dovranno integrare un tuner DVB-T2 con decoder HEVC, quindi il massimo di queste specifiche. Però sappiamo che il periodo di vita media, tra le altre cose, non assoluta, ma media, di un TV a casa degli utenti è di circa 8 anni. Quindi se noi dovessimo pensare a una sostituzione naturale di tutti gli apparecchi in corso, dovremmo almeno prendere in considerazione una finestra di 8 anni. Da qui al 2020 o anche al 2022, 8 anni non ci sono. Secondo te come va a finire? Ma allora, proprio in questi giorni l'ottava Commissione Lavori Pubblici del Senato ha dato una risposta a questa intenzione dell'Europa di fare il passaggio della frequenza al 2020, chiedendo almeno questa dilazione fino al 2022 e indicando precisamente che nel 2022, contestualmente, non essendoci spazio per fare il cosiddetto switchover, quindi mantenere le due tipi di trasmissioni contemporaneamente, ci sarà un giorno in cui in Lombardia cambieranno tutte le trasmissioni. Poi lo faranno per il Piemonte, cambieranno tutte le trasmissioni. Ricordiamo che è un'ipotesi, non è che è stato stabilito. Qualcuno magari si spaventa e dice, oddio, nel 2022 succede questo. No, tutta ipotesi. Anzi, forse non succederà comunque. Io credo che non succederà, tra le altre cose. Ma comunque, il governo intende fare questa cosa insieme, quindi passare al DVB-T2 insieme alla cessione della banda 700. Questo per cosa? Per garantire che tutti i canali che vediamo oggi siano visibili pur in uno spettro inferiore, ovvero sia per garantire agli editori il fatto di avere i loro canali come hanno oggi. Il problema qual è? E io qui sono molto critico, che tutti stanno facendo i conti con le esigenze delle TLC, perché hanno bisogno della banda, degli editori televisivi, del governo che farà un'asta e metterà all'asta le frequenze per le società di telecomunicazioni e prevede di ricavarne 3 miliardi di euro, quindi non poco, ma nessuno sta pensando alle esigenze del consumatore finale, al quale io invece penso in maniera addirittura cioè metto il consumatore davanti alle esigenze di tutti gli altri. O il consumatore finale si troverebbe il disagio e i costi relativi a uno switch off, anche se fosse parzialmente finanziato, quindi se dessero dei contributi per i decoder, sicuramente non darebbero dei contributi per il TV, ma dei contributi per il decoder come fu fatto in passato, anche in questo caso ci sarebbero dei disagi, si ripasserebbe al decoder esterno quando oggi tanti hanno, o quasi tutti hanno il TV col tuner integrato e così non hanno due telecomandi, non hanno cavi, non hanno polvere. A fronte di cosa? A fronte di nessun vantaggio, perché in questo caso continueremmo a vedere le stesse cose. E qui sorge anche una spontanea domanda. Il panorama televisivo, basti pensare a cosa è successo da ottobre scorso a oggi quando è arrivato Netflix, cioè si è scatenato un po' il mondo e anche i broadcaster tradizionali ora amano farsi chiamare media company e offrono servizi sulla rete, integrati, via satellite anche, eccetera, eccetera. Ecco, quello che è successo da ottobre a oggi ci fa pensare a cosa potrebbe accadere da qua al 2020 o addirittura al 2022. Uno scenario possibile, io direi molto credibile, è che in caso di un nuovo switch off, semplicemente una gran fetta del pubblico sceglierebbe di lasciare per strada il digitale terrestre e di accontentarsi, o magari anche di gioire, di quello che gli arriva da internet e dal satellite. Quindi in questo caso il rischio vero è che dilazionare e tenere la testa sotto la sabbia e non capire che oramai la macchina è lanciata e siamo oltre il punto di non ritorno, quindi lo switch off non si può fare senza avere la gente in strada con i forconi. Ecco, non capire questo significa tenere la testa sotto la sabbia e rimandare in attesa di tempi migliori. Poi devo capire anche chi è il governo che si prenderà la briga di dire agli italiani che bisogna cambiare tutto il parco televisivo semplicemente per avere quello che avevamo fino a ieri. Questa settimana SMAO ha fatto tappa a Padova. Sapete che SMAO è un appuntamento che fa tappa in molte città italiane. È iniziata la nuova versione 2016 con alcune novità. Allora, prima tappa a Padova. All'interno degli stand c'era un palco con quattro musicisti e una cantante che ogni ora, proprio precisamente ad ogni ora, proponevano un mini concerto con altri musicisti che erano collegati via internet. Allora, un concerto per dimostrare che cosa è possibile fare con la tecnologia, come mi ha spiegato in una chiacchierata che abbiamo fatto molto interessante Daniel Ponticello, che è fondatore e anima tecnologica di Redder, la società che ha proposto questo concerto, ma una società che si occupa di tecnologia wireless, ma non solo, di connettività internet. Beh, innanzitutto per dimostrare che con la rete implementata in maniera corretta e con, diciamo, tutti i tasselli che vanno a finire nei punti giusti, nei posti giusti, è possibile andare a creare degli eventi che sono veramente strepitosi, anche a livello sia visivo che di entertainment e a livello di messaggio. Cioè, il messaggio che noi stiamo dando qui è che effettivamente con la banda ultralarga le aziende possono collaborare, possono creare delle reti con dei progetti che sono veramente spettacolari. Allora, spieghiamo a questo punto che cosa state facendo per far capire agli ascoltatori che cosa state dimostrando. Avete una parte di musicisti qui a Padova, un'altra parte a Vicenza, e il collegamento che voi avete creato è un collegamento wireless, senza fili, con un ponte radio sostanzialmente. Detto in maniera semplice e in estrema sintesi, perché qui stiamo parlando di tecnologie molto sofisticate, molto anche complicate da un certo punto di vista, ma che cosa avete realizzato? Allora, abbiamo preso 8 musicisti, li abbiamo separati in 2 città differenti, quindi 4 si trovano qui a Padova con noi, 4 invece sono a Vicenza, come dicevamo, e in mezzo a collegare questi 8 musicisti tra di loro c'è un collegamento per l'appunto wireless, quindi su ponte radio, in banda ultralarga. Questo è un collegamento di altissima qualità, non è il wireless o il wifi che siamo abituati a vedere in giro, ma è un collegamento che non perde nemmeno un pacchetto, cioè è talmente preciso, talmente veloce che non ha ritrasmissioni. E questo dimostra che non è necessario veramente utilizzare la fibra per avere una stabilità di rete, ma si può fare anche con altre tecnologie. Tant'è vero che riusciamo ad effettuare questo esperimento in ponte radio perché le onde radio viaggiano anche molto più veloci della fibra, perché è vero che è luce e in quanto tale viaggia alla velocità della luce, però la velocità della luce è piena, diciamo così, nel vuoto. La fibra non è vuota e quindi viaggiamo a 3/4 della velocità della luce, mentre a livello radio siamo a velocità piena, perché è vero che non siamo nel vuoto anche lì, ma l'aria non conta. Questi 8 musicisti sono collegati con degli schermi utilizzando della tecnologia di videoconferenza tradizionale, che non è per l'appunto così intollerante alla perdita di pacchetti o a una linea non proprio performante. La parte video è la parte più semplice da fare, perché è una tecnologia di videoconferenza che si può implementare anche su delle connettività che si trovano regolarmente sul mercato. La parte complicata è stata la parte audio, per l'appunto. La parte audio è fatta trasportando in maniera analogica il segnale, proprio l'uscita degli strumenti musicali e l'uscita dei microfoni da una parte all'altra attraverso uno standard, una tecnologia che si chiama Audio over Ethernet. Quindi non è propriamente over IP, è su Ethernet, ma attraverso delle tecnologie anche di routing, quindi di trasporto dei dati avanzate come l'MPLS e il VPLS, siamo riusciti a portare, a collegare la parte audio tra le due location. La particolarità di questa tecnologia è che per poter essere così veloce, quindi trasportare il suono a una latenza molto bassa, quindi minore di 30 millisecondi, sono 15 per l'esattezza, deve trasportare oltre all'audio spacchettizzato una funzione d'onda, quindi un clock, una sincronia, diciamo così. Certo, per fare in modo che i musicisti suonino sincronizzati, perché sennò non capirebbero più niente. Assolutamente, ma anche e soprattutto che il suono che arriva dall'altra parte sia ricostruibile. Se non c'è sincronia, il suono non si può ricostruire, la funzione analogica d'onda non è ricostruibile. Certo, comunque senza entrare in tecnicismi, certo. Quello che voi volete dimostrare è che con una rete fatta anche in senza fili, quindi senza fibra ottica, che a volte sembra che sia la soluzione finale a tutti i nostri problemi, si può creare un sistema sincronizzato che non dia problemi. E se funziona per i musicisti, funziona anche per tutto il resto. Assolutamente, la musica è il modo migliore per far vedere la tecnologia, per spiegare come funziona un sistema. Quindi nel momento in cui noi riusciamo a tradurre tutto il lavoro, tutta la complessità che sta dietro a quello che abbiamo costruito in un qualcosa che la gente può apprezzare a livello musicale, a livello di spettacolo, a livello di immagine, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Quindi, cioè, che capiscono tutti, insomma. Lo capiscono assolutamente tutti, perché ovviamente possiamo stare qui a parlare di clock, di sync, e potremmo stare qua a parlarne veramente per ore, ma farti ascoltare 8 persone che suonano e si coordinano tra l'altro tra gli schermi, cioè gli attacchi, gli assoli, il tutto è coordinato tra di loro. Non è semplicemente il fatto di dire ho in remoto una parte ritmica che suona e quando ci arrivano qui ci suonano sopra. Io negli anni scorsi mi hanno detto un po' di tutto, del tipo è registrato, è finto, è in playback. No, non lo è. Cioè, tra l'altro abbiamo avuto anche un problema che la nostra cantante storica, la nostra voce storica si è ammalata ieri. La voce che abbiamo oggi sul palco non ha mai collaborato con noi, è arrivata ieri sera per fare le prove e è salito sul palco e ha suonato al primo colpo. Funziona tutto, visto anch'io. Tra l'altro, a conferma di quello che dici, lei legge i nomi dei musicisti quando li presenta alla fine, proprio perché non li conosce. Senti, allora, qui stiamo parlando sostanzialmente di una dimostrazione tecnologica, un po' come l'America's Cup è l'estremo assoluto per la vela, la Formula 1 lo è per l'automobilismo. Insomma, state dimostrando qualcosa a dei livelli assolutamente di eccellenza. Voi tutti i giorni che cosa fate? Non fate questo, naturalmente. No, assolutamente. Noi abbiamo preso questo evento proprio per spingere la tecnologia al massimo di quello che riusciamo a fare. E ovviamente questo ci dà anche modo di dimostrare la nostra capacità nel creare sistemi complessi, che è quello che facciamo tutti quanti i giorni. Noi siamo un operatore che fornisce connettività e trasporto dati alle imprese del territorio, perché noi lavoriamo qui in Veneto, siamo piccolini, siamo 15 persone e siamo focalizzati nel fornire servizi solo per medie e grandi aziende. Riusciamo tutti i giorni a fornire sistemi di connessione sia multisede sia di collegamento verso internet. Noi abbiamo una rete nostra che arriva fino ad Amsterdam, Francoforte, New York, Dubai. Abbiamo recentemente fatto investimenti per avere collegamenti in Cina, proprio per aziende che hanno multisede, quindi più di una sede, di una realtà dove ci sono persone che lavorano e che devono collaborare tra di loro, che sia in videoconferenza, che sia un gestionale, che sia un qualcosa che loro devono fare. Il collegamento deve essere stabile, deve essere performante e non deve perdere un colpo. I clienti si rivolgono a noi quando vogliono una cosa con questo genere di caratteristiche. Allora, fammi un esempio. Io sono un'azienda, che cosa mi fornite in modo semplice? Stiamo parlando di collegamenti wireless, e questa è la caratteristica vostra, giusto? Sì, certo. Quello che noi facciamo è analizziamo la situazione dell'azienda attuale, andiamo a vedere qual è effettivamente l'applicazione che voi dovete fare come azienda a livello proprio di gestionale, di applicativo, proprio qual è realmente la necessità, lo andiamo a misurare e poi andiamo a installare fisicamente dei ponti radio nelle varie sedi, dove ovviamente è possibile, perché ovviamente non possiamo installare un ponte radio in Cina. Ma una volta che abbiamo collegato l'azienda alla nostra rete, al nostro backbone, al nostro network, forniamo un collegamento verso internet talmente stabile, talmente garantito, che fa sì che tutti i collegamenti verso il resto del mondo siano costantemente di alta performance. Ad esempio, l'applicazione tipica è l'azienda manifatturiera che ha la sede in Cina, che ha aperto da poco. Con gli operatori tradizionali hai 400-500 millisecondi di latenza. Parliamo tanto di latenza con il concerto. Con 500 millisecondi tu non fai nulla, non lavori, non usi remote desktop, non usi nulla. Noi siamo riusciti, ovviamente con la qualità della rete che abbiamo costruito, a scendere sotto i 190, siamo a 180 millisecondi sulla Cina noi oggi. Quindi questo vuol dire che quando io faccio click col mouse, la latenza a cui facevi riferimento tu di 500 millisecondi vuol dire che aspetto prima che succeda qualche cosa, e il mio lavoro praticamente va a finire in un'attesa molto lunga. Invece con questa latenza voi fate, diciamo, mi fate fare il lavoro in modo fluido. Assolutamente, si dice che sotto i 200 millisecondi tutto sia abbastanza fluido per l'utente. Si parla molto di user experience, cioè l'esperienza che l'utente ha quando usa un servizio. È molto frustrante per una persona scrivere qualcosa sulla tastiera e vedere le lettere che arrivano un po' dopo, perché non si capisce se l'azione che io ho fatto, lo sperimentiamo spesso nei touchscreen, no? Premo qualcosa, sembra che non l'ho premuto, lo ripremo, in realtà l'avevo premuto e mi tocca ripremerlo, non si capisce cosa sta succedendo. La latenza distrugge completamente tutta la user experience. Noi, riducendo la latenza e portandola sotto i 200 millisecondi su tutte le destinazioni mondiali, diciamo che ci aiuta anche il fatto che tutto sommato l'Europa comunque è messa bene a livello di connettività rispetto al resto del mondo, ma comunque siamo equidistanti quasi da tutto. L'ultimo baluardo che era rimasto era la Cina, lo abbiamo siamo riusciti a risolverlo, e i nostri clienti in questo momento qui riescono a dare anche assistenza remota agli utenti che si trovano in Cina senza problemi. Senti, visto che stiamo parlando di collegamenti senza fili, wireless, quindi simili al wifi ma con tutta una serie di garanzie di performance superiori, come tu ci hai spiegato, e visto che io, ma non solo io, insomma, c'è un dibattito nazionale e spesso parliamo di fibra ottica, e pare che, ma di fatto lo è anche, la fibra ottica sia la soluzione a molti problemi di connettività. Fammi capire dov'è il vantaggio vostro e delle aziende che si rivolgono a voi. Esiste quando non ci sono alternative via cavo, cioè io non ho né ADSL né fibra ottica, allora vi rivolgo a voi e ai tanti operatori che ci sono in Italia che offrono servizi analoghi, perché non ci sono alternative. Ma diciamo che a livello nostro noi lavoriamo molto di più dove ci sono le zone già servite dalla fibra ottica rispetto, dove, rispetto ad essere scelti come seconda alternativa. Addirittura? Sì, mi spiego meglio. Diciamo che il problema, almeno sulla connettività che viene sperimentata tutti i giorni nelle aziende, non è tanto il mezzo o la tecnologia con cui viene portata la connettività, ma è la serietà e la, diciamo, la, il livello di perfezione con cui viene costruito la parte di circuito e come viene gestita la rete. Io posso avere anche il più bel collegamento in fibra ottica del mondo, ma se poi dopo, una volta che sono arrivato all'interno della rete, che non è, come ci vogliono far pensare, una nuvola magica che in qualche modo, una volta che ci sono arrivato con la fibra ottica, tutto funziona magicamente. Se dentro a questa nuvola il meccanismo non funziona, che è uno dei grossi problemi che abbiamo in Italia, overbooking, si vende molto più banda di quella che in realtà c'è all'interno dei nodi, non si dà assistenza alle aziende, non c'è un minimo di controllo di come devono essere fatte le implementazioni, le installazioni vengono fatte da terze parti o da terzisti che non hanno idea di come viene fatto o come dovrebbe essere fatto un impianto di telecomunicazioni, e questo lo sto dicendo a livello ingegneristico. Nel momento in cui tu ti rivolgi a un operatore come noi, ma come tanti altri che operano in Italia, che fanno i lavori fatti bene, il problema non è la fibra ottica. Ben venga la fibra ottica, non sono assolutamente contrario. Anzi, se ci fosse dappertutto sarebbe una gran cosa, ma non sarebbe la soluzione al problema. Perché comunque le aziende lo stesso si ritroverebbero poi a trovare il collo di bottiglia dopo la fibra ottica. Noi come Redder siamo già oltre a quel problema lì, perché ovviamente noi, essendo un piccolissimo player, non siamo un player nazionale, noi ovviamente non siamo all'interno del dibattito per andare a stendere o non stendere la fibra ottica. Tant'è vero che anche noi stessi ci avvaliamo di fibra spenta che acquistiamo da altri operatori, e va benissimo. Però acquistiamo fibra spenta, non andiamo a prendere capacità, proprio perché non ci fidiamo, comunque non, gli altri operatori non sono al livello che serve a noi qualitativo e di stabilità del network in generale. E tutto sta sul fatto di andare a vendere troppo, si va a fare un sacco di overbooking. Molte volte anche gente che oggi ha il collegamento in fibra ottica si ritrova che per qualche motivo ci sono dei rallentamenti. Però la gente dice, boh, sarà il mio computer, sarà il router. Sono fior di discussioni su internet, forum che dicono è il router tale o non router tale. Per carità, non dico che il router non sia importante, anzi, anche per noi, per il Music Over IP, nell'evento che stiamo facendo qui oggi, il router è la parte, diciamo, più difficile da mettere in piedi. Ma non è quello il problema, ragazzi. Il problema numero uno è che se il backbone, la connettività non è garantita, non lo è. E quindi è come avere un contatore elettrico con una potenza nominale da 100 kWh, però a un certo punto un giorno fa 10, un giorno fa 5, un giorno fa 30. Tu puoi controllare quanto vuoi il tuo impianto di distribuzione, i tuoi fili, ma se continua a variare la potenza, lavoriamo a giorni alterni. Quindi un po' di giorni teniamo accesi tutti i macchinari, gli altri giorni mandiamo la gente a casa. Va benissimo la fibra ottica o comunque la banda non garantita quando posso portare il contenuto vicino alla fibra ottica. Se posso avere caching, contenuto magari con i server locali, Netflix ha portato i suoi server a Milano, quindi abbiamo la possibilità di avere molto vicino a noi il servizio, comunque il file sorgente, e questo mi va benissimo. Ma quando si tratta di fare banda vera verso la Cina, verso gli Stati Uniti, ma anche verso l'Italia stessa, se non ho banda garantita non lavoro, e questo non dipende dall'ultimo miglio, o almeno non dipende sempre dall'ultimo miglio. Mancano 2 minuti al concerto, sì. Quindi vogliamo finire prima. A che prezzi tutto ciò? Perché uno potrebbe pensare, ma questi installano un'antenna sopra la mia azienda, fanno un ponte radio, cioè costerà un sacco di soldi. Allora, devo dire che assolutamente non è economico, questo è una verità, ma in realtà è in linea con il resto di servizi di pari fascia. Cosa vuol dire questo? Che io vado a comprare 100 megabit di banda garantita, quindi vera, pura, non i 100 megabit, ho sentito, o quelli dell'FTT Cab o dell'FTTH, quindi quelli domestici, ma se compro 100 megabit veri, puri, garantiti, da un operatore nazionale o comprarlo da noi, noi forse siamo un 10% più cari, non di più. Tipo, mi fai 2 esempi? Diciamo che un 100 megabit potrebbe costare sui 1700-1800 euro mese garantiti da un operatore nazionale, con noi saremo intorno ai 2000. 10 megabit, un po' più normale? Con 10 megabit, con i 400 euro si fa tutto. Allora, prima di tutto io manderei solo questo tipo di imprenditore ai tavoli nazionali per i piani banda larga. Se sei un grande operatore, stai fuori, perché ci sono tutta una serie di temi che non vanno a beneficio della popolazione, e quindi te ne stai fuori dal dibattito. Solo questi operatori che pensano alla tecnologia, e a me piacciono quando questi imprenditori non fanno marketing finto come fanno le grandi aziende, dove raccontano delle frottole incredibili, dicono la verità, addirittura dicendo il mio servizio è caro. Invece molto marketing è il mio servizio è il più economico del mondo, e poi ti vendono delle cose che non funzionano. A parte, scusate questa polemica, però effettivamente bisognerebbe essere un po' più sinceri, e questo penso che sia un po' il futuro di molte aziende che devono rifarsi anche una credibilità nei confronti dei consumatori, e devo dire non solo alcune aziende ma alcuni settori. Le telecomunicazioni penso che sia uno di questi settori che si devono ricostruire una credibilità nei confronti degli utenti. Adesso parliamo dei dati audio web. Lo facciamo poco, anche perché se uno si mette poi a raccontare tutti i numeri che vengono registrati da AudiWeb, che racconta la audience della rete internet italiana, insomma rischia di non capirci più nulla. Però ogni tanto è giusto e fa bene cercare di capire che cosa sta succedendo là fuori, cioè là sulla rete internet, anche perché per quelli che sono stati appena pubblicati da AudiWeb sono i dati relativi all'inizio dell'anno, quindi come stiamo iniziando questo anno. Nel primo mese, quindi a gennaio, sono stati 28,7 milioni gli utenti unici online, circa metà della popolazione internet, cioè metà della popolazione italiana va su internet. Quasi 29 milioni di italiani, e qui ci sono proprio tutti quelli che sono andati su internet, anche quelli che ci sono andati una volta al mese. Piacerebbe intervistarlo, quello che una volta al mese fa su internet, diciamo, veniamo a vedere se mi è arrivata una posta elettronica, vabbè. Allora, nel giorno medio, quindi quelli che invece sono più assidui, la popolazione in questo caso è di 21,7 milioni, quindi di fatto potremmo dire che gli italiani che vanno su internet sono circa 22 milioni, un terzo degli italiani. Vabbè, sono un po' di più perché i giovani, i bambini proprio non vengono conteggiati, anche quelli anziani non vengono conteggiati, comunque 22 milioni di italiani attivi sulla rete internet. Una delle cose più interessanti che riguarda e dovrebbe essere tenuta in considerazione soprattutto da chi fa business, e se fai business oggi un pochettino lo devi fare anche su internet, devi pensare anche ad internet. Allora, che cos'è la cosa importante? È che cresce il numero degli italiani che usufruisce di internet da mobile, da smartphone. Ne abbiamo parlato con Marco Muraglia, che è il presidente di AudiWeb. Sicuramente il mobile è la quota parte della ricerca che dimostra una crescita profonda. Sul totale delle categorie di come trascorriamo il tempo online, ha un 70% sul mobile e ha un 30% per il PC. Questo a livello del totale di quello che sono le attività che ci sono online. Con delle grosse differenze che tendenzialmente direi sono: quanto più si sta su attività tradizionali e per esempio l'utilizzo delle mail, che sono ancora un fatto ancora probabilmente in parte lavorativo, in parte da ufficio e comunque da PC, rappresentano circa il 56%, essendo il complemento accento da mobile. Ma vediamo che mediamente, man mano che ci spostiamo su quello che sono delle categorie più evolutive, come potrebbe essere gli online games, il rapporto è rovesciato con un 80% del mobile e un 20% da PC. Direi che sicuramente una cosa rilevante è che quando andiamo a vedere anche delle componenti di e-commerce, quindi quello che noi chiamiamo mass merchandiser, è diventata rilevantissima, oltre il 65% la quota di quello che dell'attività che viene svolta da mobile, a dimostrazione della tendenza che è sicuramente decisamente progressiva sull'utilizzo del mobile in una serie di attività che sono, diciamo, di utilizzo comune. Anche la parte di videos e movies, che tendenzialmente, concettualmente potrebbe essere immaginata più vicina al PC, invece vede una quantità rilevante per circa il oltre il 60% condotta attraverso mobile. E per mobile ribadisco che noi nel mobile pigliamo i 18 anni in su, quindi se provassimo a immaginare quanto i ragazzi sotto i 17 anni sono su mobile a vedere per esempio video e quant'altro, avremo probabilmente un'esplosione di questa percentuale. Quindi sicuramente un trend che va decisamente verso l'utilizzo mobile, anche in attività che tipicamente erano più di territorio del PC. E anche per questa puntata, anche per questa settimana, abbiamo terminato la puntata di 2024 in versione integrale, con molti più contenuti. Beh, questa settimana abbiamo un po' esagerato, Molti più contenuti rispetto a quello che è andato in onda, quindi mettiamo le nostre interviste quando mi piacciono, cioè che trovo persone con cui si dicono cose molto interessanti, io faccio parlare, dico, vedrai che nel podcast ci sta tutto. Come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato o ascoltato in streaming questa puntata, fateci pubblicità, non dico che ne abbiamo bisogno, ma tutti ne hanno bisogno, cioè. E poi penso che ci sia un valore non tanto in quello che faccio io, fanno i nostri ospiti, ma soprattutto i nostri ospiti, ma penso che sia importante parlare di tecnologia e diffondere la cultura della tecnologia, perché non dico che solo questa ci farà crescere in futuro, ma una bella spinta ce la darà. Quindi è importante che molti parlino la nostra lingua, perché con la tecnologia si possono fare veramente tantissime cose. Dunque, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete interagire anche tramite Facebook o Twitter, dipende che cosa dovete dire e che cosa volete scrivere, perché a volte la mail è meglio. Comunque, scegliete quello che preferite. Ci risentiamo la prossima settimana. Io sono Enrico Pagliarini. Torniamo la prossima settimana o in podcast, oppure se volete ascoltarci attraverso la radio tradizionale, venerdì alle 22, domenica alle 13.30. Grazie ancora e a presto.